9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, e in questo mercoledì 2 gennaio la storia di cui ci occupiamo è una storia che mi ha colpito perché mi ha fatto riflettere di quando da ragazzini e poi cresciuti tante volte torna in mente, perché guardando intorno a sé un paese che spesso delude, ci lascia perplessi e a volte francamente ci deprime, tante volte alla mente torna poi un refrain che per quello che mi riguarda ricorda appunto quando ero piccolo e dividendosi in squadre di ragazzini che si affrontavano tra indiani e cowboy o tra fazioni e partiti, un po' capendo come sarebbe stata la politica più avanti nel nostro paese, a un certo punto un po' stanchi e quando ci si rendeva conto che le forze avversarie erano preponderanti si dichiarava, ci si arrendeva, e ci si arrendeva di solito a quelli ai quali si faceva più affidamento, cioè da coloro ai quali poi ci si aspettava di essere trattati meglio. Insomma, tante volte nella vita mi è passato in mente, per esempio pensando alle tasse, ma perché non dichiariamo guerra alla Svizzera a costo che ci annettano e poi ci applicano le loro stesse condizioni? E a furia di ripetermelo poi sorridendo e scherzando, capita invece che poi la vita ti offra delle occasioni concrete in cui esattamente questo meccanismo, che può sembrare ironico ed è sicuramente anche in questo caso paradossale, però tanto ironico e tanto paradossale, alla fine non si rivela. Perché? Perché la vicenda di cui ci occupiamo oggi è una vicenda un po' particolare, perché è quella di un fondatore, animatore, instancabile, l'anima di un museo di arte contemporanea che sta in un luogo d'Italia un po' particolare, perché questo luogo si chiama Casoria ed è quindi terra di Camorra, il quale a un certo punto, considerata che le istituzioni della Repubblica Italiana e tutto quello che possono fare anche le associazioni intermedie della società civile, alla fine, dopo tante parole, non è che gli consenta davvero di andare avanti per questa impresa che ha messo in piedi e che rappresenta uno dei pochissimi punti per attirare turisti in un'area parecchio degradata. Alla fine che cosa decide? Lo vedremo, perché è ospite da noi e lo faremo raccontare direttamente da lui. E io lo ringrazio di aver accolto il nostro invito, e qui con noi Antonio Manfredi, che è il direttore del Museo di Arte Contemporanea di Casoria. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ed è con noi, poiché come avrete capito di un museo d'arte contemporanea si tratta, ed è qui con noi per capire quali sono un po' i problemi più ampi di questo settore nel nostro paese, nell'ambito di un paese dove la polemica è molto viva per i tagli pubblici alla cultura e dove i privati lamentano di non essere incentivati abbastanza per dare, e quindi insomma è una situazione un po' preoccupante. Pur in presenza di uno dei patrimoni più rilevanti della terra, abbiamo con noi per parlarne una delle persone rispetto alle quali il mio timore reverenziale, la mia gratitudine per tutto quello che mi, parlo a nome personale, mi ha insegnato e continua a insegnarci, secondo me, nella vita per quello che fa, è davvero enorme, e quindi lo ringrazio. Si chiama Filippo D'Averio. Buongiorno, grazie D'Averio. E lo so, la presentazione non la imbarazzi, io sono sincero, quindi io quando sento la sua trasmissione mi metto in religioso silenzio e se sorrida, ma prendo anche appunti a volte. Mi fa molto piacere. Allora, Antonio Manfredi, ci racconti partiamo dalla lettera, cioè da questa iniziativa che ovviamente ottiene l'effetto come vede che lei voleva, cioè fare parlare del suo museo, però lei prende carta e penna, poi ci racconterà del museo, come nasce l'idea, come l'ha messo in piedi, ma lei com'è che ha deciso di scrivere alla cancelliera tedesca Angela Merkel? Beh, innanzitutto è diventata un'esigenza dopo 6 anni in realtà di lavoro duro. Noi siamo, come lei diceva, anticipava, insomma, a Casoria, nell'Hinterland napoletano, ai confini con Afragola, insomma, in realtà poi 2 comuni che hanno fa sciolti per infiltrazioni. Questo ovviamente non ci ha esentati dal realizzare delle mostre molto importanti, essendo nell'Hinterland napoletano. Noi in realtà abbiamo voluto dare un taglio anche sociale, oltre alle mostre poi di arte contemporanea pure, insomma. Quindi questo dopo tanti assalti dovuti alla tipologia di mostre che noi abbiamo realizzato, mi ha costretto costretto a fare una richiesta così, lei la definisce provocatoria, ma insomma è una esigenza reale di salvaguardare queste opere, insomma parliamo di 1000 opere di arte contemporanea provenienti da 80 nazioni diverse. Voi avete fatto, mi pare di capire, anche delle iniziative esplicitamente rivolte ad attirare l'attenzione, a far riflettere l'opinione pubblica sulla camorra. Sì, sì, noi 2 anni fa abbiamo realizzato una mostra che il titolo era Cam Horror, il nostro museo è il Cam, insomma noi abbiamo giocato un poco su questa questione, ho invitato una 20ina di artisti napoletani a esprimersi su questo tema e poi anche sull'integrazione, quindi una grande mostra sull'arte africana e anche in quel caso abbiamo avuto poi un bambolotto nero impiccato fuori ai cancelli, insomma non è facile operare da queste parti. E non erano, per così dire, gli ammiratori di Cattelan quelli che hanno appeso il bambolotto? Non era un gesto che rievocasse provocazioni artistiche, per così dire? Beh, diciamo che non è proprio così semplice. Gli artisti africani che erano venuti qui per l'inaugurazione della mostra non l'hanno presa proprio bene, insomma, come un atto di performance artistica. L'idea di fare questo museo e di metterlo in piedi proprio lì, come è nata, dove gli è nata e in realtà con quali risorse siete andati avanti in questi anni? Guardi, 6 anni fa l'idea venne insieme all'amministrazione comunale, insomma io sono un artista internazionale, sono nato a Casoria e venne l'idea di realizzare un museo cercando di riattare uno spazio di 3000 metri quadrati che era completamente abbandonato a se stesso. Purtroppo dopo si iniziò con una grande mostra 100 artisti per un museo dove io coinvolsi appunto 100 artisti da varie parti del mondo che credettero in questo progetto per la rivalutazione dell'Interland napoletano. Dopo pochi mesi l'amministrazione venne sciolta e io a quel punto decisi insieme ai miei collaboratori di non arrendersi e di continuare diventando di fatto un museo gestito in forma privata con l'aiuto di pochi collezionisti e sponsor privati insomma del territorio. Poi abbiamo continuato su questa scia fino a diventare un museo conosciuto a livello internazionale. Le risorse vi hanno consentito di andare avanti come negli anni? Cioè dovesse dare un giudizio oltre al CAM che avete messo in piedi a Casoria, allargando per questa sua esperienza e lo sguardo un po' più ampiamente al settore in Italia, che impressioni ha in termini comparati anche rispetto alla realtà che conosce degli altri paesi in situazioni analoghe di fronte a iniziative analoghe? Guardi, noi siamo un caso abbastanza unico perché praticamente abbiamo iniziato con un'amministrazione comunale alle spalle, poi dopo 3 mesi questo è venuto a meno. Un caso unico dico perché poi dal primo momento ci siamo dati una struttura, manageriale, nel senso che noi abbiamo portato avanti questo museo con sponsorizzazioni private. Il problema fondamentale non è mai stato i soldi, perché nessuna amministrazione né comunale né locale, né provinciale né regionale né nazionale ha mai finanziato questo museo. A livello nazionale di musei invece che sono nati con i finanziamenti pubblici è ovvio che con gli ultimi tagli si sono trovati in grandissime difficoltà, non ultimo il Madre di Napoli è quasi praticamente alla chiusura. Questa è la situazione locale e nazionale. Poi a livello locale in realtà oltre il CAM e il Madre non ci sono altre realtà di arte contemporanea, probabilmente in tutto il sud. E quindi per questo alla fine Antonio Manfredi, affrontate tutte le possibili ipotesi che non si concretizzavano con i suoi collaboratori, ha rivolto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata alla cancelleria germanica e per conoscenza all'ambasciatore tedesco in Italia una richiesta specifica che ha l'oggetto c'ha proprio la dizione asilo politico culturale al governo della Repubblica federale tedesca, e in questa lettera Manfredi scrive alla cancelliera: per l'importanza del suo paese e per quello che noi stiamo facendo, noi ci dichiariamo pronti a una qualunque formula di adozione da parte tedesca della nostra iniziativa, compresa quella, se non ve ne fossero altre, di trasferire armi e bagagli, la nostra iniziativa e la nostra collezione, in un sito adeguato nella Repubblica Federale Tedesca. Naturalmente la speranza è quella che ci sia un'altra soluzione, però dichiarare guerra, diciamo così, sorridendo, arrendersi a chi è più forte, da questo punto di vista, lei perché dice la Germania? Solo perché è il paese leader o perché le piace come funziona lì l'organizzazione delle iniziative culturali? Beh, innanzitutto la Germania è leader forse al mondo per quanto riguarda la cultura, i musei, c'è una grande attenzione, è anche uno dei pochi paesi, diciamo, al mondo che non ha fatto tagli, che non ha fatto tagli alla cultura. Ma a prescindere da questo, la mia esigenza fondamentale è quella di mantenere, di salvaguardare una grande collezione di arte contemporanea. Vede, quando non hai appoggi politici e non hai appoggi delle amministrazioni di qualsiasi genere, sei solo nei luoghi dove noi operiamo, questo diventa assolutamente pericoloso, insomma. Quindi lasciare alla mercé di atti vandalici, di richieste di ogni sorta, mi porta sicuramente a dover chiedere a chi può fare qualcosa, insomma, di intervenire e di salvaguardare quest'opera. Qui il problema non è Antonio Manfredi, il direttore, o i suoi collaboratori, in realtà è proprio questo enorme patrimonio culturale che noi abbiamo messo su, insomma, che in qualche modo, senza assolutamente arrendersi, noi cercheremo con tutti i modi possibili e immaginabili di salvaguardare. E noi siamo qui anche per questo, come vede, appena abbiamo visto la cosa abbiamo deciso di aprire i microfoni per voi. Con Daverio, adesso tentiamo di fare una riflessione sulla condizione delle iniziative come queste in Italia, cioè i musei, stiamo parlando di quelli di arte contemporanea, che mi piacciono particolarmente, sono naturalmente un attento osservatore anno per anno di iniziative di arte contemporanea, le maggiori ci sono a Torino, Bologna e così via, ma detto tutto questo, qui dobbiamo naturalmente pensare al patrimonio museale, al patrimonio artistico culturale italiano. Su questo, Daverio, dopo questi mesi di polemiche che ci sono state per i tagli pubblici, lei come la vede? C'è stato una qualche segno incoraggiante di reazione, di risposta? Come vede la prospettiva lei? Non la vedo mica bene, non la vedo bene per un motivo anche abbastanza comprensibile: alla maggioranza degli italiani la questione non interessa, questo non è grave, anche alla maggioranza dei tedeschi la questione non interessa, è sempre in un modo diverso che la faccenda si pone. La minoranza che si interessa a questi temi è in alcune parti del mondo la minoranza che guida il paese. Da noi la minoranza colta non è più la minoranza che guida il paese, è tutta lì la differenza. Cioè lei dice, questo è molto interessante, c'è un problema che riguarda il tipo di classi dirigenti, perché c'è stata un'inversione del meccanismo tradizionale per cui l'arte, l'importanza della cultura eccetera eccetera non è oggi nella testa di chi comanda. Ma guardi, è molto facile, l'ha capito tutto Winston Churchill, proprio negli anni nei quali Adolfo Hitler prendeva il potere. Lui disse una frase emblematica e disse: la democrazia è il peggiore di tutti i governi, esclusi gli altri. Perché lo diceva? Perché la democrazia oggettivamente è una roba difficile da guidare, richiede che da qualche parte l'opinione si formi, e l'opinione si forma in una fascia piccola della società, poi riesce attraverso dei filtri a permeare sul resto del mondo che gli sta intorno. Quando si abbandona questo ruolo della fascia piccola, si inventa quella cosa che fu inventata da Hitler, che si chiamava la democrazia diretta. E da noi è stata replicata l'idea della democrazia diretta attraverso quella che si chiama la teledemocrazia, no? E si arriva lì, cioè si arriva a quella roba lì difficile che non dà più grande soddisfazione e che va abbastanza facilmente verso la catastrofe. Quindi il plebiscitarismo è nemico da questo punto di vista anche della cultura, dei musei eccetera eccetera. E questo mi sembra una straordinaria maniera di farci capire il cortocircuito decisionale. Però noi siamo anche reduci da tanti decenni precedenti, prima del plebiscitarismo della Seconda Repubblica, dell'era Berlusconi, siamo anche reduci da decenni in cui, insomma, la classe politica in sé per sé non è che mi sembrava brillasse. L'hai fregata molto. Allora facciamo un altro ragionamento. Manfredi ha avuto un intuito geniale, come spesso capita ai napoletani, che sono lì nella melma, poi gli viene tac l'idea della roba giusta da fare. Perché ha fatto bene a rivolgersi alla Merkel, che ovviamente non risponderà alla sua richiesta? Ma per due motivi. Uno, perché la Merkel è l'unica in Europa che ha dichiarato con determinazione, lo ha poi fatto un po' anche Cameron, quando ha fatto il suo taglio di 80.000 miliardi, no? Hanno salvato la cultura, l'università, eccetera. No, lei ha fatto un discorso molto semplice, ha detto la cinghia per tutti, fuorché per la formazione e la ricerca, no? E che voleva dire fare una scelta molto precisa. Noi avevamo detto una tirata di cinghia piuttosto media, ma soprattutto la cultura e la formazione. Sono due linee diverse. Con la loro linea è successo che adesso, non so se sono notizie che poi voi dovreste sapere meglio di me, sì, ma la BASF, cioè la Bayer Sanilinus-Soda Fabrik, la più grande azienda chimica tedesca, quest'anno ha annunciato che ridurrà le vacanze, aumenterà gli stipendi perché non riesce a star dietro agli ordini. E la Volkswagen fa più di 7 milioni di macchine per la prima volta nella sua storia. Il loro PIL cresce del 4% e il nostro forse diminuisce perché non osiamo dire la verità. Ci sono delle scelte che sono scelte storiche, alle quali noi non ci arriviamo. Questo è il primo motivo per il quale l'avevo fatto bene. Il secondo motivo è che la Germania, dopo il 45, dopo la grande catastrofe hitleriana, si trovò di fronte al problema di rifare una società e riempì il paese di strutture culturali che servivano a riaggregare la comunità. La quantità di finanziamento, infatti adesso finanziano un po' meno perché sono già aggregati, quindi la cosa è anche meno pressante. La quantità di teatri, di case d'opera, di Kunsthäuser, cioè di luoghi di aggregazione sull'arte contemporanea e passata, creata in Germania, è stato un progetto politico che dal 45 agli anni 70-80 è servito a rifare un paese. E da noi? E da noi non si fa così. Da noi, attenzione, bisogna essere onesti, quella roba di Winston Churchill c'era anche da noi, il filtro per far sì che l'opinione media non fosse l'opinione dominante. Da noi quel filtro era l'oratorio, era la sezione del PC, la bocciofila, cioè sostanzialmente più un po' il circolo dei borghesi in città e un po' di Rotary, no? Cioè le due grandi strutture del proletarismo intorno ai due grandi partiti. Certo, e poi sta roba qua si è rotta. Adesso l'unica cosa che è rimasta è Rotary, ma non è sufficiente per far stare in piedi un paese. Allora, quello che fa il Manfredi in quel pezzo di mondo molto complicato e dolente e critico è che ha inventato una cosa che si chiama presidio territoriale. Presidio territoriale è un aggregante sociale che fa stare in piedi un pezzo di paese. E presidio territoriale in un paese normale sarebbe stato assolutamente sostenuto. In Italia oggettivamente non frega niente a nessuno. E temo che da quelle parti, malgrado il successo di Saviano, del suo libro Gomorra, delle sue presenze televisive, nella sostanza poi siamo le solite, cioè grande successo per la denuncia, ma poi cosa cambia? Ora voi direte, tutto questo cosa c'entra con l'arte? Sbagliato, io aderisco in toto a questa visione di Filippo Daverio, per cui l'arte contemporanea, come tutta quella che è nella storia, nel DNA, nella spina dorsale del nostro paese che l'ha prodotta e del mondo con cui è interagita ed è figlia di tutto questo, è figlio di scambi metabolici, perché questa è l'arte. Allora, l'arte è esattamente questo, l'arte è l'espressione quotidiana del meglio, dell'eccellenza, ma che vive di come un paese si è trasformato e ci dice che cosa è. Quindi la storia di Casoria, anche secondo me, non è affatto la trovata di due che hanno la passione per l'arte, è la maniera attraverso la quale il degrado civile del nostro paese, che si legge anche in questa cosa dell'arte, nel fatto che noi da anni siamo lì tutti a polemizzare, poi troviamo una strada per finanziarlo. Io sono per una strada, per esempio, per la quale mettiamo alla prova i privati, abbattiamogli molto il fisco se danno tutto ai musei, alla cultura, a organizzare le stazioni teatrali, eccetera, poi vediamo se funziona. Invece nel nostro paese non facciamo neque, come si dice, né l'una cosa né l'altra, quindi tagliamo le risorse pubbliche perché bisogna tagliarle. E contemporaneamente poi una delle altre strade per cui al mondo si riesce a non far deperire un patrimonio tante volte meno rilevante del nostro, però non la imbocchiamo. Questa chiave che vi ha dato Daverio sul fatto che c'è un problema su chi le piglia queste decisioni, non per fare razzismo etico, Però è evidentemente una delle ragioni per cui dopo tanti anni non ne usciamo fuori. Dovesse decidere Filippo Daverio ministro, il meccanismo di finanziamento di questo tipo di iniziative e la copertura, per esempio, dell'esigenza finanziaria per mantenere quantomeno al meglio un patrimonio come il nostro, quale sarebbe? È chiaro che lei sarebbe contrario ai tagli e direbbe tagliamo su altro, ma questo è un patrimonio da tutelare e quindi facciamo come in Germania e in Gran Bretagna. Ma oltre a questo, sui privati, secondo lei che cosa bisognerebbe fare? Ma guarda, il problema lì si pone su due temi completamente diversi, cioè il tema dell'arte contemporanea e il tema del patrimonio culturale sono due cose diverse. Il patrimonio italiano è troppo grande per uno Stato fragile come l'Italia, cioè l'Italia è la risultanza di 7 Stati precedenti governati dal più rozzo dei 7, che era il Piemonte. Il patrimonio del Piemonte era molto molto inferiore al patrimonio del Regno delle Due Sicilie, oppure al patrimonio del Veneto, no? O della Toscana, no? E come hanno fatto, poveretti? Ci hanno provato. Io oggi, mi ricordo una trasmissione recente in televisione, ho lanciato il progetto di affidare Pompei, per esempio, ai caschi blu. Cioè, sì. Tanto Pompei sarà mica degli italiani, Pompei. Si studia più latino a Oxford, a Cambridge, oppure a Königsberg, che di quanto non se ne studi nell'Italia centro meridionale, anche nel nord. Cioè, se dovessi chiedere agli amici della Lega quanto latino studiano, devo dire la risposta non deve essere particolarmente attraente. No. Allora la latinità di chi è? Ma sarà dell'Occidente, sarà mica di questi quattro italiani che se l'hanno occupata. E del resto le faccio osservare a lei, che me lo insegna, che Malatatürk, quando dovette mettere in piedi la Turchia, sapendo all'inizio del secolo scorso che di risorse non c'erano, tutti i più grandi siti archeologici della Turchia classica li affidò uno per uno, chiave in mano, a una grande università archeologica o tedesca o americana o francese. Non si può più, cioè l'Italia non ce la fa più, bisogna avere il coraggio di ammetterlo. Allora la domanda diventa molto più feroce ancora: come si fa a ricostruire una struttura aggregativa del sistema culturale italiano? Purtroppo quando interviene lo Stato la catastrofe è garantita, cioè io ho visto le spese fatte recentemente nel Meridione per operazioni totalmente inutili e mi è dispiaciuto, cioè, una serie di ministeri misti, fra cui quello delle risorse economiche, si sono messi lì a fare interventi di teatro fra Napoli e Sicilia, interventi di arte contemporanea con mostre pleonastiche inutili a Palermo, che sono costati decine di milioni di euro e che sono passati sotto il naso di tutti, a favorire chissà chi. Io per esempio sul Madre sono molto polemico, cioè il Madre è una struttura che parte da, a mio parere, da equivoci urbanistici fortissimi e ha ottenuto un risultato in fondo alla fine catastrofico. Il caso del Manfredi è diverso, è completamente diverso. Manfredi mette in piedi una operazione che è un focolare di civiltà in un'area dove la civiltà sembra essere bandita. Quindi il suo un vero caso di presidio territoriale. E quelli lì possono essere sostenuti anche dalle anime pie che girano da quelle parti, ma le anime pie hanno i soldi. E le anime pie, se danno i soldi, come le possono detrarre? No. La struttura fiscale presuppone che i soldi buttati via in cultura sono dei soldi sottratti agli appetiti infiniti dell'erario, per così dire, improduttivi oltre che sottratti all'erario. Allora la interrompo perché abbiamo la pubblicità. Naturalmente, pensate, per me che sono liberista, la descrizione, purtroppo, lo dico purtroppo con l'amarezza, ma è la stessa che condivido, dello sfascio in cui si risolvono gli interventi pubblici, però lascia aperto il punto che è quello da cui ripartiremo con Daverio. E in questo caso però i privati che cosa possono fare al meglio? Pubblicità. Eccoci tornati in studio, stiamo ragionando con Antonio Manfredi, direttore del Museo d'Arte Contemporanea di Casoria, che ha scritto ad Angela Merkel arrendendosi ai tedeschi, dicendo, per così dire, non ce la facciamo più qui, nessuno ci dà una mano a Casoria, terra di Camorra oltretutto, e quindi perché non ci adottate? Noi siamo pronti anche a trasferirci. Con Filippo Daverio abbiamo iniziato a esaminare come e perché i paesi del patrimonio e della ricchezza di iniziative, oltre che di patrimonio, che siamo, non ha più questo al centro della sua agenda da tempo. tempo c'è un problema di cortocircuito che nelle classi dirigenti, il filtro, perché la democrazia non si riduca in plebiscito e opinione, quindi media che diventa dominante, nell'opinione media ovviamente la cultura, l'arte eccetera, non per fare il razzismo, ma ovviamente non sono una priorità. Questo invece avviene con le derive plebiscitarie, e a questo si aggiunge che abbiamo una tradizione storica che è quella che i 7 paesi riuniti 150 anni fa sono un paese ancora fragile, e quindi la capacità di tenere in piedi tutto questo non ce l'hanno. E dunque, però, nel breve, come fare davvero? Cosa si può importare da, senza copiare, abbiamo una storia, un patrimonio particolare, ma dagli altri paesi, con le iniziative che funzionano, dovesse essere lei il ministro, che cosa importerebbe? Ma io importerei un po' di spirito rivoluzionario che manca totalmente agli italiani. Nel senso che se uno domani mattina si mettesse a tagliare i fondi all'università in Germania, fanno tira fuori la forca dal granaio. Noi non conosciamo neanche i dati, ma voi sapete che in Italia noi laureiamo il 3,5% della popolazione e i tedeschi il 21%. Sì. Come facciamo a competere con questo divario? Eppure se facessimo un referendum plebiscitario abrogativo delle facoltà di filosofia, lo vinciamo subito. Sì, non c'è dubbio. La maggioranza abolisce subito le facoltà di filosofia. In Germania invece vanno prendendo una strada diversa. Allora, l'unica strada oggi, non ci sono vie istituzionali. La comunità europea ci dà dei fondi ogni tanto per interventi in campo culturale, e questi fondi vengono in alcuni casi anche spesi con intelligenza, ma nella maggioranza delle situazioni vengono sperperati. In fondo quello che dice Manfredi alla fine si potrebbe anche risolvere, attenzione, non c'è nulla di negativo in quello che dico, nella vecchia frase fra sei e sette barocca, quando dice o Francia o Spagna purché se magna, cioè che ci governi qualcuno. Quelli che ci sono oggi non sembrano essere in grado di farlo, cioè anche perché hanno interessi completamente diversi. Allora cosa vuol dire? Cosa bisogna fare? A mio parere bisogna creare una situazione, scusi, la parola è un po' grossa, ma non vorrei che fosse fraintesa, ma una situazione fra virgolette pre-rivoluzionaria, cioè bisogna che l'elite che esiste si verifichi, riesca a darsi una dimensione, riesca a capire che c'è sul serio, e comincia ad alzare la voce, comincia a dire no, guardate, le cose non stanno come dite voi, le cose sono diverse. Cioè, a che ce ne frega noi di avere questa macchina dell'ipocrisia assoluta che prendeva tassi per conto dello Stato che si chiama Equitalia e deruba i cittadini? Cioè buttiamola via, cioè tentiamo di trovare delle robe diverse. Cioè, musica per le mie orecchie, davvero, no. Io lo sapevo, però. Ma no, guardi, io lo so che adesso lei dice no, attenzione, distinguiamo, io lo dico per creare un'atmosfera e poi per affrontare il problema. Anch'io, ovviamente, mica sto pensando che bisogna fare poi davvero l'insurrezione, però mi rendo conto che l'insensibilità è molto estesa e quindi la provocazione dura su queste cose serve a questo. Però dunque c'è anche chi dice, io sono tra quelli, quindi faccio finta di fare il mediatore oggi, ma apprezzate il mio equilibrio in questo, c'è anche chi dice sì, però insomma dovremmo innanzitutto prendere atto che lo Stato avrà tempi lunghi prima di riformarsi, poi la politica può determinare cambi anche rapidi delle classi dirigenti quando esse hanno veramente deluso e fanno, propongono di sé l'immagine che propongono ogni giorno. Però detto questo, invece, quello che si può fare è tentare una svolta sul privato. Allora, qui abbiamo con noi collegato Filippo Cavazzoni, che è direttore editoriale dell'Istituto Bruno Leoni, e per l'IBL segue i temi della politica della cultura, dello spettacolo, e l'Istituto Bruno Leoni in questi anni di roventi polemiche, in questi ultimi mesi di tagli con la finanziaria eccetera, più volte ha proposto una strada alternativa, aggiuntiva ma alternativa, rispetto a quella dei tempi lunghi per trovare le risorse e la sensibilità di politici perché non le taglino nel bilancio pubblico, che è quella del privato. Filippo Cavazzoni, la vostra opinione è che cosa bisognerebbe fare perché i privati subentrassero con maggiore disponibilità, più intelligenza e sensibilità, ricordandoci quello che diceva Churchill, da cui siamo partiti, per tentare di tenere in piedi meglio il nostro patrimonio? Sì, buongiorno intanto. Sì, noi pensiamo che il dibattito sia stato impostato nella maniera sbagliata, nel senso che si insiste molto sull'aggiunta di nuove risorse attraverso sovvenzioni dirette, mentre chiediamo invece che il discorso che va fatto sia opposto, ovvero bisogna sottrarre l'intervento dello Stato. Sottrarre in che senso? Il sovrintendente Liesner, ad esempio, qualche settimana fa ha dichiarato che nel 2009 la Scala ha pagato 39 milioni di tasse e ha ricevuto 37 milioni dallo Stato. Ecco, quindi dà più di quello che riceve. l'intervento dello Stato anche in termini di regolazione, anche in termini di rigidità del mercato del lavoro, sempre per quanto riguarda le fondazioni lirico-sinfoniche, c'è stato un altro sovrintendente, Marco Tutino, a dire che gli organici sono sovradimensionati, però sono tutti dipendenti a tempo indeterminato, quindi diventa difficile fare una cura dimagrante. Quindi una parte del problema è legata all'eccessivo intervento dello Stato, che è paradossale se si seguono i termini del dibattito, perché tutti invece parlano di un maggiore intervento dello Stato. Ecco, quindi se lo Stato si deve fare un po' da parte, vuol dire che è il privato che invece deve fare un passo in avanti, ma per fare un passo in avanti ha bisogno di qualche incentivo, ad esempio per quanto riguarda le donazioni il regime fiscale non è proprio incentivante, è più incentivante per le imprese che per i singoli cittadini, però le donazioni che vengono fatte in Italia sono basse se raffrontate a quelle di altri paesi. Un altro intervento che si può fare è quello di pensare a quei settori, noi abbiamo lanciato un po' provocatoriamente, ma ci crediamo, l'idea di far gestire Pompei ai privati, ovvero ci sono alcuni settori in cui i privati possono trarre profitto dalla gestione dei beni culturali. Che però è un termine che applicato spesso al patrimonio artistico, culturale, museale, eccetera, rispacca il dibattito perché, per esempio, il professor Settis, l'ex presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali, poi sostituito dal professor Carandini, su questo ha fatto fortuna editoriale e molte campagne di sensibilizzazione che godono, insomma, del vasto consenso del più dell'intellettuale italiana, proprio dicendo giù le mani del profitto dalla cultura. E come risponde invece chi è liberista e mercatista su questo, Cavazzoni? Certo, il settore culturale è un settore interamente no profit. Gli unici che cercano di fare profitto sono quei privati che gestiscono i servizi aggiuntivi nei musei, però è una piccolissima fetta, cioè si tratta dei bookshop, si tratta delle caffetterie. Il merchandising, queste cose qua. Il merchandising, queste cose qua. Noi invece pensiamo che un privato for profit possa gestire interamente anche un'istituzione culturale. Proprio perché alcune istituzioni culturali, si pensi al giro di denaro di Pompei, ecco, in questo senso una istituzione culturale come Pompei può portare profitto. Ovviamente non stiamo parlando di vendere il patrimonio dello Stato, ma stiamo parlando di darlo in concessione, quindi la proprietà rimarrebbe in capo allo Stato, così come anche la tutela. Esistono le sovrintendenze che devono tutelare. Esattamente, l'idea che non è solo per la cultura, non è solo per i musei, non è solo per le fondazioni lirico-sinfoniche, è che non è affatto detto che ciò che è pubblico debba essere gestito da dipendenti pubblici con regole pubbliche. Può restare pubblico come proprietà e come tutela, assolutamente, ci mancherebbe altro, quindi non è che scappa seguendo le tasche e gli interessi dei proprietari privati, ma ciò che è pubblico può essere affidato in gestione a privati integralmente, anche la gestione dei musei per profitto. Certo, per profitto significa però con capacità di reperire autonome risorse capaci di far stare queste istituzioni sul tra virgolette mercato, il che significa mercato non solo di coloro che pagano i biglietti ma di coloro che a quel punto dovrebbero essere meglio incentivati a donare, e però meno dipendenti a quel punto da risorse che del resto lo Stato tende a tagliare sempre di più e che è difficile immaginare che possano moltiplicarsi, per quanto magari ci sia dietro l'angolo l'avvento di una classe politica dotata di quei criteri prioritari di cui ci parlava Daverio, come in Germania, come in Gran Bretagna. Però comunque la prospettiva è quella di dover adottare un ruolo più ampio dei privati. Però bisogna cambiare le regole, bisogna fare queste rotture di continuità, ma il pregiudizio nel nostro dibattito è ancora molto forte. Sentiamo come la pensano alcuni ascoltatori della vicenda di Antonio Manfredi, del Museo d'Arte Contemporanea di Casoria, dell'idea di arrendersi ai tedeschi e delle amare, divisive considerazioni che ci ha fatto anche Filippo Daverio su questa atmosfera pre-rivoluzionaria che bisognerebbe diffondere su questi temi. Iniziamo con Maria Teresa che ci chiama dalla provincia di Vercelli. Prego, Maria Teresa. Buongiorno a tutti. Allora, io volevo raccontare la nostra esperienza. Io lavoro per un ente pubblico che ha avuto un finanziamento di, sempre partecipando a un bando, per 1 milione di euro per ristrutturare una parte di un edificio storico che versava in cattive condizioni. Sì. E allora abbiamo contattato la sovrintendenza e la sovrintendenza ci ha detto di rivolgersi a un archeologo per avere un'assistenza. Ci siamo quindi rivolti ad una facoltà universitaria di archeologia con cui collaboriamo da sempre. Sì. E, la sovrintendenza locale praticamente ha dimostrato un atteggiamento molto ostile nei confronti di questa facoltà che ci assisteva, francamente a titolo gratuito. Semplicemente a nostra impressione, perché questa facoltà non era evidentemente così strettamente collegata in relazione con la sovrintendenza, e ha insomma cercato di dissuaderci e di farci rivolgere ad altri. Perché volevano che lavoraste con persone che fanno parte del circuito abituale, che lavorano per la sovrintendenza. Sì. Ecco, vabbè, questo, cara Maria Teresa, io non posso dire senza entrare nel merito, se non che il settore pubblico italiano è abbastanza dovunque in preda a logiche di questo tipo. Abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, poi Paolo dalla provincia di Milano e poi torniamo con i nostri due ospiti per la conclusione. Eccoci tornati in studio, se abbiamo Paolo dalla provincia di Milano, prego Paolo. Buongiorno. Pronto, mi sentite bene? Sì, è in linea, prego, dica. Buongiorno Oscar Giannino e buongiorno Filippo Daverio e all'ospite Manfredi. Sì. Premetto che sono un appassionato e molto sensibile al tema dell'arte e condivido con lei, Oscar Giannino, che sono tra quelle persone che prende gli appunti quando sente Filippo Daverio. Professor Daverio, lo so. Vabbè, il professor Daverio, è veramente squisita la trasmissione. Però a questo punto probabilmente dovremmo anche pagargli una retta, perché io sono dell'idea che poi i professori si pagano, quindi io noi ci sto, invece approfittiamo indegnamente. I professionisti io pago. Volevo dire però l'argomento merita un ampio respiro, come il dottor Filippo Daverio ha detto, cioè l'unica trasmissione credo in Rai dove si parla di arte è quella del dottor Filippo Daverio o del professor Filippo Daverio, quindi quando in televisione non si parla di arte e non si parla di arte contemporanea, ovviamente è molto difficile fare delle scelte anche se affascinanti. Quindi oggi io ho acquisito un nuovo concetto, che è quello di presidio del territorio, però francamente io conosco per motivi di lavoro, sono stato a Casoria, francamente è veramente una sfida portare a Casoria delle persone, dei turisti, della gente a vedere un museo. Ecco, quindi io penso che in un paese come l'Italia, e sono d'accordo nel creare una pre-rivoluzione culturale e non solo, perché la gente che ci governa, quella di oggi e forse anche quella di ieri, non ha mai trattato il tema dell'arte così come un'Italia si meriterebbe. Forse dovremmo cominciare da Pompei, no? Come tutti lo so, però il problema è che io temo che noi siamo capaci poi solo di fare dibattiti, perché su questo ci vogliono rotture vere, cioè le rotture vere, quelle che si possono fare dal basso, intellettuali dal basso, gente dal basso, perché se aspettiamo solo di cambiare governi, probabilmente hanno bisogno di gesti di provocazione molto forte, perché altrimenti prevale la continuità inerziale, e una continuità inerziale fatta di decisioni obbligate, di sovrapposizione di competenze. Sappiamo come funziona l'incrocio di competenze tra sovrintendenti, perché poi c'è una lotta interna tra chi rappresenta il sistema, tra chi pro tempore nella catena di comando, per chi ha il comando al ministero, c'è una lotta molto esplicita, e quindi secondo me dal basso che bisogna organizzare qualche gesto di rottura. Sentiamo Stefano da Bergamo, come la pensa ancora? Buongiorno. Stefano, dica, prego. Io volevo intervenire se era possibile riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche. Che aveva toccato Cavazzoni, dica. Ecco, io sono un dipendente di una fondazione lirico-sinfonica, faccio parte di un'orchestra, e volevo dire una cosa, questi tagli sui teatri che sono stati fatti dal ministro, sì, Bondi, allora, partiamo dal presupposto che una direzione, quando mette in preventivo un bilancio, sa benissimo il personale stabile che ha. Sì. E nonostante questo, le dico perché suono, perché praticamente lavoro in un teatro lirico-sinfonico da 20 anni, comunque si sperperano un sacco di soldi per registi, per direttori d'orchestra, che non hanno un limite di cachet in Italia. All'estero c'è il limite. In Italia non si sa perché questo limite non viene messo, e dopo si dà sempre la colpa agli orchestrali, i dipendenti stabili, insomma, che costano troppo. comunque l'anno prima, due anni prima, la direzione quando mette in preventivo un bilancio sa benissimo i costi che avrà fra due o tre anni, non si sa perché dopo due o tre anni comunque sono sempre in deficit. Stefano, io su questo, Stefano, su questo io le prometto che noi dedichiamo una puntata, io sto inseguendo da tempo il maestro Muti che racconta molte esperienze in termini comparati delle diverse orchestre che ha diretto e molte esperienze proprio sugli orari, sugli schemi per cui nelle diverse orchestre italiane ci sono accordi storici diversi, per cui c'è un limite alle prove, c'è un limite al numerico a chi partecipa alle prove rispetto al numero di ore destinato invece a poter liberamente esercitare la professione musicale alternativamente rispetto agli impegni prioritari. Insomma, c'è una questione di regole nel nostro paese, dice il maestro Muti, insieme a lui che hanno una certa esperienza di conduzione. Quindi io le prometto che questa questione che lei pone dal punto di vista di chi è dipendente orchestrale e dice ce la prendono sempre con noi, ma il problema sono i cachet degli spettacoli, gli spettacoli bisogna farli ovviamente attirando attori, registi, messe in scena che poi nella mia opinione si ripagano meglio se uno ha una gestione seriale e aperta al mercato, quindi che non ha un costo unico di realizzazione, però lei capisce che non c'è solo il punto di vista di chi dice priorità ai dipendenti, il problema è saper tenere tutte e due le cose insieme. Ma sulla musica ci torneremo, spero di avere presto maestro Muti, sto tentando di averlo e vedremo a quel punto quel giorno. Posso chiedere a Antonio Manfredi una risposta a chi dice però certo Casoria era forse un posto un po' disperante per portarci gente, ma voi ci riuscivate a portare gente con la CAM a Casoria? Beh, guardi, diventa adesso in questo periodo anche difficile portarli a Napoli, insomma, quindi figuriamoci a Casoria. Certamente non siamo in un circuito turistico, ma voglio dire, questo non ha assolutamente importanza, la gente viene comunque perché quando facciamo le inaugurazioni arrivano anche apposta a Casoria per venire a vedere il museo, ma il problema fondamentale è anche legato a quello che si diceva prima per quanto riguarda le sponsorizzazioni private. Sì. Io sono assolutamente d'accordo che devono essere i privati a sponsorizzare lei sa che su questo c'è per esempio una forte resistenza da parte della struttura dei beni culturali, perché se nelle nostre norme fiscali la sponsorship non è parificata alla donazione è perché la struttura dei beni culturali, e su questo ha sempre messo un parere negativo ai governi che gli chiedevano l'opinione, perché pensa che con la sponsorship a quel punto si affida all'impresa privata una specie di sfera troppo ampia, predominante nell'organizzazione di un evento culturale eccetera eccetera, che invece va preservata alle sovrintendenze. Lei su questo come la pensa, per esempio? Ma io guardi, penso che debba essere come tutte le cose un misto tra privato e pubblico, dove non arriva il pubblico può essere aiutato dal privato. D'altronde noi al Museo di Casoria abbiamo operato per 5 anni prettamente con sponsor privati, perché il pubblico non ha mai speso una lira per questo museo. Ma se si scende sul territorio, e questo volevo rispondere per quanto riguardava la questione di Casoria, sì, esattamente, perché fare un museo a Casoria? Se si scende sul territorio il problema diventa assolutamente sociale, perché gli imprenditori, i miei imprenditori sponsor del museo, più di una volta mi dicevano: guarda che noi aiutiamo il museo, però siamo molto vessati anche dalle tangenti, quindi a questo punto diventa anche difficile baccamenarsi tra la camorra e l'arte. E questo poi che alla fine ti costringe quasi a fare dei gesti estremi, neppure a me piace aver messo la bandiera tedesca. Invece secondo me, come vede, ci ha dato l'occasione adesso il problema è quello di non lasciarla tra virgolette morire lì con la lettera, quindi io quello che posso dirle è che noi siamo pronti a seguirla in tutti i modi, cioè a costo di riorganizzare una cosa, perché su quelle cose bisogna battere quando si riesce ad abbattere il muro del silenzio. Quindi adesso vediamo se dopo tra un po', un mese, due mesi, voi non avete nessun tipo di risposta, acchiappiamo noi a questo punto, chiediamo noi all'ambasciata, ci mobilitiamo noi con Berlino e torniamo su questo punto, perché il mio spirito è, Daverio ci indica la strada, dobbiamo prendere dal basso. E come si è visto in questa trasmissione, in realtà la pensiamo diversamente, perché ci abbiamo un'idea chi che debba essere molto più lo Stato. Io credo che debbano essere molto più i privati, ma la questione è che viene prima l'obiettivo di reagire e di prendere in mano le questioni dal basso. Poi, civilmente, questo fanno le classi dirigenti, vediamo di intenderci su quale sia la miglior soluzione. Il problema è non rassegnarsi a che non ve ne sia nessuna di soluzione in questo paese. Per Pompei, come per i teatri, per l'arte contemporanea di Casoria, come per abbattere le tasse. Per questo, e stiamo concludendo, io ringrazio Filippo Daverio perché ci insegna. Non significa essere d'accordo su tutto con lui o sull'ermeneutica della storia dell'arte con lui. Ci insegna che un paese è fatto di reazioni civili dal basso e di classi dirigenti dall'alto. Senza di questo c'è schiavitù giù e strumenti di schiavitù su. Ecco, questa è la prospettiva alla quale, tramite l'arte, la musica, la cultura, bisogna essere capaci ogni giorno di trovare nuove risorse intellettuali per guardarsi negli occhi allo specchio e stringersi le mani e dire: noi siamo la storia, noi, non loro che ci governano. Grazie a Antonio Manfredi, grazie a Filippo Daverio, grazie a Filippo Cavazzoni, appuntamento a domani di Nel Giornale Radio.